11 agosto 391. Con una piccola lastra di marmo, m'affretto a ricoprire l'ultima anfora colma di rotoli. Mi sento a pezzi, ho corso come un dannato fino alla sommità del faro per sbrigarmi. Oggi all'entrata c'erano molte guardie che mi hanno rivolto strane domande. Afferro la lucerna, mi precipito per i cunicoli calpestando topi e sbattendo contro i pipistrelli spaventati fino alla botola che dà sul cimitero dei bambini e delle bambine. Riesco a rimettere a posto la grata arrugginita, la ricopro con quanto più terriccio possibile, mi giro attorno, scoperchio una tomba. È una lastra di marmo della grandezza giusta, la trascino, non respiro più, ma non cedo, copro la botola. E ora? La parte più dura, il macigno con l'accecamento di Polifemo. Il mio pensiero va a quei grandi scienziati, alla linfa del loro sapere racchiusa nelle anfore e a Ipazia. Raccimolo, forze sconosciute, stringo i denti e alla fine ci riesco. Uff, la botola da cui si accede alle viscere dell'Ade è bloccata. Per qualche lustro, Democrito e Aristarco di Samo sono al sicuro. È la dodicesima ora, dal tramonto siamo passati subito all'oscurità. Una pioggerella inaspettata e ristoratrice cade sui miei capelli e sulla mia faccia zuppa di sudore. Anche il povero asinello di Shai sembra provare sollievo e l'andatura è un po' più vivace. Devo recarmi a casa di Valeria, la mia compagna del centro studi, che abita vicino alle mura antiche, tra il canale e via Dinocrate. Ieri alla biblioteca mi ha pregato di intervenire alla cerimonia religiosa. Mi ha assicurato che non voleva convertirmi, ma ci teneva a far conoscere al padre tutti i suoi compagni di studi. Raggiungere via Zenone non è facile. A quest'ora il traffico dei carri è intenso, più che di giorno. Si trasportano le mercanzie per non intasare le strade durante le ore diurne. E solo via Canopica e via del Somma vengono illuminate durante la notte. Mi viene ad aprire Valeria con una lucerna in mano. Alla mia età, capelli neri raccolti sulla nuca. I suoi occhi vivaci risaltano sul bel volto allegro. Ha uno sguardo che brilla quando prende la mia mano con la sua e mi conduce per un breve corridoio. Raggiungiamo uno stanzone magazzino, pieno zeppo di gente. Ci saranno 50-60 persone. Il locale è impregnato di profumo di viola che proviene dalle lucerne. Tutti i fedeli sono inginocchiati a capochino. Valeria tira la mia mano, spingendomi a genuflettermi. Cerca i miei occhi, ha un'espressione dolcissima sul volto, ma non riesco ad accontentarla e resto in piedi. Regna un silenzio assoluto. In fondo alla sala, illuminata da lucerne poste su ripiani di legno a diversa altezza, una piccola statua di marmo di Zeus, unico, in trono, con un moggio di grano sul capo e con Cerbero. Olimpio, anch'egli inginocchiato davanti alla statua e in completo raccoglimento, si alza in piedi. I suoi paramenti religiosi sono semplici, una lunga tunica bianca con dei fili dorati. Ebbene, fratelli e sorelle, la nostra religione ci impone innanzitutto di essere sinceri e io lo sarò. Ormai da qualche settimana ci riuniamo di nascosto qui e in altri luoghi come questo. Ma come ci sentiamo vicini, forse ancor più di quando ci riunivamo nel Serapeo, così grande e freddo. In questo luogo io sento il vostro respiro, la vostra paura, i vostri dubbi, così come voi sentite i miei. La sua voce cavernosa possiede venature di dolcezza incredibile. Questo doverci riunire e pregare di nascosto ci permette di capire meglio quello che hanno sofferto i cristiani e le cristiane prima di noi. Buddha diceva che si dovrebbe sempre onorare la religione delle altre persone, perché così facendo si aiuta la propria religione a crescere. Ogni essere vivente deve avere la libertà di poter pensare alla vita dopo questa. Metà dei testi della nostra biblioteca e di tutte le biblioteche del mondo sono testi di religione, perché la morte ci accomuna. Ognuno crede nella sua divinità, nella sua speranza. Gli occhi del sacerdote cercano i miei, poi tornano ad abbracciare tutti. I nostri antenati e antenate hanno dipinto Cerbero con tre teste, un serpente per coda e moltissime teste di serpenti che sergono dal suo dorso per non permettere alle nostre anime di fuggire dall'Ade. Io non penso che le cose stiano così. Quel mondo ci fa paura solo perché ci è sconosciuto. Crediamo Credo che quando avremo raggiunto l'Ade non rimpiangeremo questa carcassa che è nient'altro che una prigione. Nell'Ade andranno le nostre anime libere e Cerbero ci aiuterà a tener lontano qualche povera creatura che ancora non è riuscita a liberarsi completamente dalla zavorra del suo corpo mortale. E giunge le mani in un gesto di pace che tutti i fedeli si scambiano. Valeria protende una mano, attende le mie dita incerte. Approfittando della gente che si alza in piedi, mentre alcuni fedeli cominciano a muoversi verso di noi per abbandonare la sala, mi libero della ragazza per salutare Nicandro, Ausenzio, Esichio e Olimpio, gli altri compagni del centro studi, tutti elleni come Valeria. Mancano Davide e Samuel, ebrei, e Ottavio ed Erculiano, cristiani. Appena il sacerdote si è liberato dei paramenti, mi strappa dai miei compagni con le sue enormi mani, mi presenta frettolosamente ai padroni di casa, Libanio e Masinta, genitori di Valeria, e mi fa conoscere il poeta Claudio Claudiano. Questi è piccolo di statura, lievemente gobbo, occhi ardenti, chiarissimi. E così tu sei l'ultimo acquisto del centro studi? Ipazia ha un'alta considerazione di te, Shalim, lo sai? Oh, sono felice di sentirtelo dire. Anche lei ti stima molto, anche se pensa che sprechi il tuo talento dedicandoti solo alla poesia e alla retorica. Claudio mi trascina a un tavolo imbandito con dolci al miele e tazze di vino e mi invita a tenergli compagnia. Mentre divoriamo delle ciambelle squisite, la sua voce squillante riesce a sovrastare il chiacchiericcio della sala. Ognuno deve seguire il suo destino, Shalim. Io non riesco a concentrarmi sui numeri, sulle traiettorie dei pianeti. Mi incuriosisce l'uomo, la donna, con i suoi sentimenti e le sue passioni. Anch'io sono elleno, eppure, mentre Olimpio predicava, ero più affascinato dal suo tono di oratore che dal contenuto del suo discorso. E domattina, alle prime luci dell'alba, comporrò una poesia, non per raccontare quello che sta accadendo qui ad Alessandria, ma per far sentire la spiritualità che si può respirare, non solo in un maestoso tempio di marmo, ma anche in un'umile cantina. E questa poesia potrà diventare un raggio di luce tagliente nel mare ghiacciato del cuore di Evagrio e di Teofilo. Afferra una tazza di vino, senza perdere di vista i miei occhi. Non ci crederai, Claudio, ma anch'io scrivo, ogni giorno, e racconto questi avvenimenti perché sento che sono decisivi per il destino dei popoli. Mi fissa con occhi furbi, beve ancora del vino, il piacere si effonde per il volto. Perdona la mia franchezza, Claudio, ma penso che il progetto di mutare l'animo e i propositi del prefetto e del vescovo con la poesia appartenga alla sfera dei sogni. Il mondo lo cambieranno personaggi come Aristotele, Democrito, Euclide e Ipazia, tutto il resto è perdita di tempo, non è così? Beh, sei stato tu a dirlo, gli rispondo sorridendo. Ma tu a pensarlo? Non me la prendo, amico mio, anche perché sono convinto che ognuno di noi reciti un ruolo importante per la realizzazione della commedia umana. Spero che un giorno tu abbia un po' di tempo a disposizione per assistere a qualche lezione nel mio centro studi. Allora vedrai quali tematiche riesci a sviluppare e incendiare la poesia. Vieni, Shalim. E cerca di convincere anche la tua maestra. Farebbe bene anche a lei. Ah, il centro si trova nel bel mezzo del parco di Pan. Nella penombra dell'androne, accanto a una statua di Menade danzante, un velo di inquietudine offusca il bel volto di Valeria, che accenna a volermi chiedere qualcosa. Trema, poi si fa coraggio. Vivi con Teone. E Ipazia, vero? E con Epicra del miglior cuoco d'Alessandria, rispondo. Ma lei non riesce a sorridere, si morde le belle labbra. Nicandro, Ausenzio, Esichio, Olimpio, Davide, Erculiano e Samuel sono tutti innamorati di Ipazia. E mi fissa emozionata. Valeria, sei troppo intelligente e hai un cuore così puro che non ti mentirò mai. Ipazia non è solo una donna eccezionale. È qualche altra cosa, è qualcosa di più. Lei sta in mezzo a noi unicamente perché adesso sta vivendo in questo mondo, ma appartiene a un'altra dimensione, a uno di quei mondi infiniti di cui parla Democrito. Lei ama tutti noi, Lotta per noi, ci illumina, è un piccolo sole, Valeria. Ci si può non innamorare del sole? Valeria sorride, anche se ha gli occhi umidi. Forse hai ragione, Shalim, io sono una donna eppure darei la vita per lei. Tu provi la mia stessa sensazione, lei sta in mezzo a noi, lotta per noi, ma è come se fosse distante, è come se appartenesse a un altro mondo. Spesso per la testa mi frulla il pensiero che lei sia a conoscenza di molte più cose di quelle che ci spiega e che sia costretta ad adattarsi a noi, alle capacità della nostra mente. E noi dobbiamo aiutarla in questa sua missione. Teone è malato. Lei ha bisogno di gente come noi. Sento la voce scordata di Nicandro alle mie spalle che mi chiama. Valeria, so di poter contare su di te. E le catturo le braccia in una morsa affettuosa che accresce l'emozione nei suoi occhi. Abbiamo cenato e ci siamo rintanati nella biblioteca. Ipazia tiene sulle gambe Teodora, le accarezza la testa. La gatta è felice. Il volto di Teone non mostra i segni della sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi tempi. Ottimo lavoro, figliolo. Da come ci hai descritto il luogo, non deve essere stato semplice nascondere le anfore. Bene, bene, bene. Passiamo subito alla seconda fase dell'operazione. È meglio evacuare anche la biblioteca. Tutta quanta, signore? Tutti i 700.000 rotoli e codici? Non hai notato nulla, Shalim, in queste ultime settimane? Non hai visto quanti assembramenti di folla, soprattutto nei pressi dei nostri templi? La voce di Teone vibra di inquietudine. Sì, non ne avevo parlato per non allarmarvi. E allora è il caso che cominciamo a muoverci. Non ce la faremo mai a spostare tutta la biblioteca, ma almeno gli originali, quelli sì. Dovrebbero essere poco più della metà, è così, signore? Sì, più o meno, ma anche per questo serve uno spiegamento di carri e tanti, tanti amici. Il vecchio si sfiora con un dito i radi capelli ricci attorno a un orecchio. È i pazzi a intervenire. Quello che ci occorre, Shalim, è una nuova sistemazione, una nuova sede della biblioteca e del centro studi, ma io e Teone non abbiamo la più pallida idea di dove andare. Dunque cerchiamo una soluzione provvisoria. Nel piccolo porto antico, di fronte al tempio di Posidone, ricordi, Shalim? Annuisco rapidamente per non tradire la mia emozione. Ebbene, lì è ormeggiata da oltre un anno la nave di Zosimo, un vecchio commerciante siriano che fino a qualche anno fa trasportava fogli di papiro in tutto il mondo. Oh, lo conosco, si riforniva da noi. Zosimo è nostro amico, è persona illuminata. Domani stesso gli facciamo la proposta di ospitare i 400.000 rotoli nella sua nave. Ipazia non abbandona i miei occhi. Qualche dubbio, Shalim? Non so, la nave mi ricorda quelle incendiate da Giulio Cesare da cui partì il rogo che distrusse la biblioteca madre. Interviene Teone. Codice e rotoli, figliolo, non staranno mai completamente al sicuro, così come chi li scrive, chi li legge e chi li interpreta. Teodora si libera dalle mani di Ipazia e salta sulle mie gambe, alla ricerca delle mie carezze. Ipazia e i rotoli nascosti nei sotterranei della biblioteca? Decidete voi. Io non vedo l'ora che finisca tutta questa faccenda. Abbiamo tante cose da fare, tante, tante. E i suoi occhi si annebbiano. Dobbiamo realizzare un modello d'astrolabio perfezionato al massimo e un altro planisfero. Ho anche cominciato lo studio per costruire un aerometro e un idroscopio. Richiama il suo pensiero dalla nebbia dei progetti e si morde le labbra. E poi dovrei andare a parlare con l'imperatore. Armeggia per legare i capelli con un laccetto nero, tenendoci inchiodati alle nostre sedie, con i suoi occhi percorsi da un disincanto lucido, struggente. Dobbiamo andare avanti in tutte le scienze, perché l'amara verità è che in questi ultimi anni non abbiamo fatto alcun progresso sostanziale in nessun campo, che si tratti di medicina, di astronomia, di matematica o di fisica. È vero che tutto questo concatenarsi di avvenimenti distoglie la nostra attenzione, ma è altrettanto vero che noi tutti ci adagiamo in questa situazione. Voi più di me, perché non prendete mai un'iniziativa e aspettate sempre che sia io, sempre io, Ipazia, la maestra. E freme per la rabbia. Io non sono che una ragazza di 21 anni e ho bisogno di tutti voi. Io non sono una creatura speciale, lo volete capire? Serra gli occhi impregnati di dolore, mordendosi con i denti le labbra. Teone mi fissa serissimo. Figliolo, sii sincero con lei. Io non posso, sono il padre. Lei pensa che il mio giudizio sia frutto solo dell'affetto. Oh, non devi preoccuparti. Tua figlia conosce perfettamente le sue capacità. Sa che è una maestra. È consapevole d'aver ereditato tutto il suo sapere da filosofi e scienziati dell'ellenismo. Ora sono io a cercare i suoi occhi. Ipazia. Lo capisco, avresti bisogno di un ambiente tranquillo, come i grandi pensatori e pensatrici del passato. Tu vorresti solo indagare, confrontarti con altri studiosi e studiose, dedicarti solo alla speculazione filosofica e scientifica. Mi fermo per trovare il coraggio di essere completamente sincero e lucido. Fuori sibila un vento fastidioso. Ipazia, perché non cambiamo punto di vista? Non potrebbe essere che proprio questo continuo stato di incertezza e di paura accenda la nostra mente, spingendola verso soluzioni definitive. Che fanno studiosi e studiose nella grande Roma? Oziano, mangiano, bevono, copulano, vanno alle terme, declamano versi a ogni angolo di strada, ma in 1000 anni non hanno coltivato un solo frutto positivo per la ricerca scientifica. Gli occhi della giovane si sono addolciti. Mi sorride. Forse hai ragione tu, Shalim. Chi conosce veramente l'essere umano? Il vento si insinua sotto le porte, nella finestra. Fa ondeggiare le fiammelle delle lucerne, ma non riesce a far vacillare la zona di luce in cui è racchiusa la figura di Ipazia.